belli sono tutti difficili. Quelli facili, i prêt-à-porter, ti annoi. Ti annoi. Una ragazza a Mantova, mi ricordo, carina, ultimo anno al liceo. Gli dico, come va? Insomma, ho tante paure, mi fa. Beh, vabbè, è la tua età. Ma ce n'è una più grande, qual è? Quella di innamorarmi. Dico, questa è brutta. E quindi? Dice, guardi, io volevo dirle che mi sarei organizzata così. Dico, sentiamo. Che appena io mi faccio piacere quelle che non mi piacciono tanto. Che, essendo molto carina questa qui, si capiva che aveva uno stuolo di chaperon sotto casa pronti a qualsiasi atto. Appena vedo, intuisco, dice lei, che c'è uno che mi fa perdere la testa, scappo via. Chi è che ha insegnato sta roba qua? Chi è che ha insegnato questa roba qua? Questa non è farina di sacco di una ragazza di 18 anni. Questa l'abbiamo insegnato noi. E ci vuole un bel coraggio per insegnare questo a un figlio. Perché cosa dovremmo fare nella vita? Scappare da tutte le emozioni. Ah sì, e cosa ci rimane? Togliete le emozioni dalla mia vita, non ci rimane niente. Non sarei certamente seduto qua. Io le emozioni le ho sempre rincorse. Perdi, certo. Mio nonno mi diceva, non buttare sempre il cappello sulla tacapanni. Ogni tanto, buttelo oltre. Ero bambino e non capivo. Adesso so benissimo cosa vuol dire. Perché l'ho fatto. E l'ho perso tante volte. Ma quella volta che ho vinto, che gusto. Indelebile. E questo hanno ragione i ragazzi a cercare. Tutti i giorni e tutte le notti. Ma non è così al tempo della tecnologia. Parma. Sempre ragazzi. Perché sono interessanti, Parliamo di amore. Non erano molto convinti del mio approccio su questo sentimento. Erano insofferenti. E uno si alza e dice, vabbè, insomma, sarà come dice lei. No, dico, giovanotto, non è che sarà, è proprio è così. Tanto per capirci, io e te. Perché tu non sei niente e quindi io sì. No, perché se siamo tutti sullo stesso piano, no, altra cosa su cui poi parliamo di internet, tutti sullo stesso piano. Bene, dice allora, vabbè, insomma, sarà come dice lei, come sarebbe questa passione, quindi, secondo lei? Dico, guarda, passione è complicata da descrivere. È come un vento che ti arriva improvviso, ti coglie, ti stravolge, ti gira. Quando ti arriverà la riconoscerai, prima è difficile saperlo. Sarà una notte in cui ti giri, stragiri tra le lenzuola e poi non ne potrai più di pensare a lei e alle 5 di mattina vai alla stazione e prendi il primo treno che ti porterà da lei. Questo mi guarda e fa, ma perché alle 5 del mattino? Perché voi sapete che l'amore e le passioni al tempo di internet sono diverse. E WhatsApp, ore mezzanotte. Amore mio, se tu fossi qui non sai cosa ti succederebbe, però adesso sono stanco, ciao. Perché quando pulsa la strada, capite, no? Quando pulsa la pressione non c'è niente che la può tenere, no? Sposta le montagne, non avete ancora capito? Poi, con calma, il giovanotto si alza che la mamma gli ha fatto il breakfast, vorrai mica farlo tu, no? C'è sempre la mamma che fa il breakfast. L'altro giorno, infatti, c'era una signora che aveva un figlio di 22 anni, diceva no, perché non posso mica farglielo fare a lui. Dico, no, sì, sì, capisco che è una cosa difficile. Dice, ma poi, per esempio, la moca. No, dico la moca, no. No, su questo siamo d'accordo. A 22 anni usare la moca, no. Siamo in Italia, la moca va usata oltre i 60. Perché ci vuole una grande esperienza, bisogna chiamare la nonna consulenza, perché è lei che sa che ci deve dell'acqua dentro, perché se no uno 22 anni come fa a saperlo? Ma per forza, perché li abbiamo svegliati per anni e anni e anni, toc toc, guarda che sono le 7:10, perché quelli lì vanno in discoteca ma non sanno che sono le 7:10. Ma voi pretendete che un figlio al liceo sappia che sono le 7:10? Ma sono cose tremende, non si può pretendere dai giovani questo. E poi alle 7 dici guarda che sono le 7, e alle 7:10 guarda che sono le 7:10, ricordi di lavarti i denti, perché se no lui, giovanotto, sono cose che gli vanno via dalla testa. Ci sono dei genitori, aga qua, ci giuro, che fanno lo zainetto per i figli. Ma vi rendete conto? È la mamma che mette il sussidiario, perché sennò quello si dimentica, ma quello si dimenticherà sempre se c'è una che glielo mette il sussidiario dentro. Ma ci vuole Marconi per capirlo. Ma io non lo so. Ma alle 7, sarà alle 7? Ma dormite, genitori, tranquilli, sereni, non svegliateli più. Ma state tranquilli. Sono le 7:30, perdere la scuola è un problema mio, di papà, che perde la scuola. Ma sarà un problema suo o no? Ma quando cresceranno sti ragazzi? Ma ditemelo, quando cresceranno? Ditemi una frase da persone mature. Adesso fanno l'esame di maturità? Sì o no? Voi pensate che siano maturi? Perché uno fa l'esame di maturità è maturo? Perché uno che traduce dall'inglese perfettamente è maturo? Uno che fa una bella interrogazione di italiano è maturo? Ma chi l'ha detto una roba del genere? Ma chi l'ha detto? Non c'entra niente. E noi li chiamiamo maturi, ma non sono maturi. Domandate cosa volete fare da grandi. Boh. Cosa si fanno? Cosa si vuole nella vita per andare bene? Brescia, perché lì sono precisi. 3 cose. Ah, dico, meno male che non sono 4. Prego. Soldi. Ma va? Non ci avrei mai pensato. Poi? Raccomandazioni. Ah. Terzo? Non vi dico la parola, comunque fondo schiena. Chi è che ha suggerito? Chi è che ha suggerito sta roba qua? Non è vero niente, è una balla colossale. Non è vero niente. Non è vero niente, non è vero che ci vogliono i soldi, non è vero che ci vogliono le raccomandazioni e non è vero che ci voglia fortuna. Non funziona così la vita, perché le idee vengono prima dei soldi. Le idee fanno venire i soldi, ma i soldi non fanno venire le idee. È così semplice. O no? Volete andare a vedere da Benetton? Facciamo la differenza tra la prima generazione, la seconda generazione e la terza generazione. Chi è che ha inventato la roba? Forza! Forza! E i primi? E perché i secondi no? Perché c'erano tutto. È ovvio. Se c'hai tutto, cosa vuoi inventarti? Il nuovo marketing. Le magliette tinte in capo. Ma va là, ma non sanno neanche cosa vuol dire. Sanno quanti soldi hai in banca. Punto, fine. Quindi, come vedete, i soldi non servono. Raccomandazioni. E perché? Raccomandati sono gli sfigati. Mi telefona uno. Rispondo, ciao Paolino. Oh, Madonna. Era dal liceo che non mi chiamavano Paolino. Quindi era evidente che questo signore risale a quell'era geologica. Salve, cosa gli dici? Salve, come va? Dopo 45 anni. Dico, voglio vedere dove va a finire questo, perché qualcosa ci sarà. Dice, sai, insomma, bene, bene, bene, sai che mio figlio è architetto? Dico, no, non lo sapevo, questo mi riempie di gioia, anzi penso che stanotte non dormirò. Quindi che lì avevo cominciato a capire, no, perché sai, mi hanno detto che tu lavori con chi? Con Renzo Piano. Bene, gli ho detto, adesso stai fermo lì che ti faccio il film, quello che tu mi stai chiedendo, non me l'hai ancora chiesto ma te lo dico io, tu metti giù, io telefono a Renzo Piano che non mi risponderà, ma metti che risponda, e gli dico, sai che io ho uno che faceva il liceo con me che ha un figlio che è architetto che ha 32 anni, E lui dice: ma dai, ma una cosa pazzesca, ma davvero, ma fammelo venire, chiunque esso sia. Sì o no? A Parigi ci sono 86 ragazzi e ragazze che lavorano con il signor Renzo Piano, delle macchine da guerra, da tutto il mondo. Ma secondo voi sono? Ha ricevuto un sacco di telefonate, ma davvero? E se vi dico che non ne ha ricevute neanche mezza, per la semplice ragione che se io volessi far del male al figlio di questo sconosciuto per me ormai ex compagno del liceo, farei questo, lo porterei a Parigi, che si mette dentro il gruppo di ragazzi e ragazze Formula 1 che stanno facendo il nuovo progetto del Ministero di Grazia e Giustizia. E quelli dopo mezz'ora mi dicono: senti, fai una cosa, perché non, siamo al Marais, un bel quartierino, perché non ti fai una birra? Perché ci stai rallentando, perché non sai far niente. E quando i ragazzi te lo dicono, tu sei qui perché ti hanno fatto una telefonata, tu la sera quando ti guardi allo specchio, al bagno, cosa ti dici? Io chi sono? Una telefonata di papà. È bello? Ditemelo se è bello. Ditemelo. Io lo posso dire perché domandate a chi organizza questa serata. Non so dove siano. Hanno ricevuto una telefonata di un senatore della Repubblica dicendo: ai Crepè c'è una certa età, fammelo lavorare ancora un po', forse può dare ancora qualcosa al paese. Così che funziona. Non funziona così. Io ho fatto 3.000 serate come questa. 3.000. E sapete che ve le ho fatte? Perché sono bravo. Molto semplice. Sono bravo. Perché non chiamate un imbecille qua. Chiamate uno bravo. Non è andato via nessuno. O non avete proprio niente da fare stasera. O delle gran cretinate. Non le sto dicendo. Sì o no? E voi pensate che il mio editore mi pubblica dicendo: beh, insomma, Crepè, vabbè, dai, un altro libro, su, fa così? No, la Mondadori non fa così. La Mondadori pretende da te il meglio che hai. Evidentemente il meglio che hai è ancora buono. Se no, non mettono i soldi su di te. Sì o no? È così che va il mondo. È così che vanno le cose. Steve Jobs, nato da una coppia che l'ha abbandonato. Fortuna? Si chiama fortuna essere abbandonati da bambini? No, non è fortuna. E poi adottato da una famiglia, San Francisco, che non arrivava bene alla fine del mese. Fortuna anche questa? Dai, forza, fortuna anche questa. Bene, poi miliardari? Non mi pare. Neanche milionari e neanche benestanti. Semplicissime persone. E poi ti metti in un garagetto di 15 metri quadri, te e il tuo amico, e non c'hai soldi, non c'hai neanche un dollaro, ma c'hai un'idea, una grande idea. Si chiamano icone. Avete presente le icone, quelle che ci clicchi su e si apre il mondo? Beh, l'hanno fatto quei due ragazzi lì, che insieme non facevano 40 anni, senza un dollaro, con degli schermi improvvisati, ma c'avevano la testa. E la testa non dipende dal 740. E allora piantiamola di dire queste cose ai nostri figli. Ma perché li vogliamo male? Non è vero che più soldi hanno, migliore sarà la sua vita. Ma chi l'ha detto? Ma che se la facciano loro la BMW a 40 anni, a 50 anni, se sono bravi o no? L'unica cosa che siamo riusciti a fare è dare una casa. Diamo tutti la casa ai figli. No, l'altro giorno una coppia, sa, quella crisi, la nostra figlia, dico, l'età della ragazza, dice, 4 anni e mezzo. Dico, cosa avete fatto? Dice, sa, c'è la crisi, abbiamo comprato un appartamento, una villetta in parte qua. Ah, dico, meraviglioso, un'idea molto buona. Avete dato l'ergastolo a vostra figlia a 4 anni e mezzo. complimenti, l'ergastolo gli avete dato. Eh sì, perché quando avrà 20 anni e va al bar davanti, perché dalla villetta ti puoi andare avanti, non è che puoi andare da tanto, e trovi uno e dice: tu che sei così carino, di dove sei? È australiano. Oh, che miseria, peccato, perché sei in via Roma, ci potevamo frequentare magari, però se sei in Australia, bello, eh? Forza, l'Italia che cresce, non eravamo così, voi non eravate così, negli anni 50 c'era della gente con un coraggio che faceva paura, non aveva una lira, non sapeva neanche parlare italiano. Ho conosciuto un signore che vende macchinari alla NASA, faccio fatica io che un po' di francese, quello là lo conosco, perché questo qua, più che quel dialettone là, proprio non andava, io non so come abbia fatto con la NASA. Una meraviglia di uomo, 14 ore al giorno lavorava. Oh no, non li conoscete questi vecchi qua? Io sì. Ho lavorato con la Confartigianato Vicenza tanti anni, ne ho conosciuti tantissimi. Perché il capitano di industria negli anni 50-60 faceva così? E un ragazzo del 2017 non deve far così. Lago di Garda. Mi invitano a una conferenza, era fine dell'inverno, inizio della primavera. Bene, in questo paesino c'era un unico albergo che aveva anche un ristorantino che era chiuso, ma il direttore, faccio una cortesia, glielo apro, che se no non sa dove andare, c'è anche il ristorante, vabbè, vado lì, ovviamente non c'è nessuno, c'è un cameriere vicino, siccome io non faccio sempre un sacco di domande, ho cominciato a fare due chiacchiere con sto signore. Dopo un po' gli ho detto: scusi, ma lei è italiano? Perché parla perfetto, però ho sentito un accento. Dice: no, effettivamente c'ha ragione lei. Io sono della Croazia. Dico: bene. E sono venuto via durante la guerra con mia figlia piccola e mia moglie. Siamo venuti qua. E lei lavora qua, immagino. Sì, lavoro qua. Scusi, come l'italiano, quante altre lingue sa? 5. Scusa. Bene, e sua figlia cosa fa? Fa scienze alberghiere. Bene, e poi lavora qua sul Garda. E sua figlia quante lingue sa? 5. Allora, me lo volete spiegare, cari signori del Nord-Est, come mai una ragazza di 22 anni che studia a Verona e che è croata, sa 5 lingue, e i vostri no? Cosa c'hanno di speciale i vostri figli? Pensate forse che i vostri figli non abbiano bisogno, per esempio, di sapere l'inglese come l'italiano? Vi illudete. Il mondo parlerà solo inglese, lo sta già parlando. E perché loro no? Perché non devono fare questo sforzetto? Ditemelo, perché? Chi è che ha meno paura della crisi? La ragazza di 22 anni che ha 5 lingue? O un ragazzo dei nostri che sì e no che parla l'italiano? E lo scrive male, perché ricevo delle mail di laureati, che meno male che ho già i capelli bianchi, perché sennò diventavano proprio candidi. Sì o no? A forza di avere diplomifici, che basta che ti iscrivi, che ti promuovono, il 99.5% dei ragazzi che accedono alla maturità verranno promossi. Togliamo la maturità, scusate, ma è una presa in giro. Ma scusami, pensate, mettetevi negli ottica dei ragazzi, uno dice: è un esame, ma che esame? Basta che gli dai nome e cognome, basta, codice fiscale. Tanto ti promuovono, devi studiare, perché 99,5, basta che non so, neanche quelli che scendono le scale e bestemmiano, li bocciano. Cosa bisogna fare per essere nello 0,5? Prendere per il collo la prof di matematica, ma neanche quello, perché poi il papà, che per caso è avvocato, no, ti dirà: guarda che lui ha dei momenti di aggressività, che bisogna capire, perché la nonna non sta tanto bene, eccetera, eccetera. Sì o no? I genitori che fanno i sindacalisti dei figli. Già con i sindacati mi pareva che fossimo a posto, no? Adesso abbiamo inventato una nuova categoria di sindacato, che è il sindacalismo dei figli. La professoressa, pochissime ormai, sono come i panda, decide che Giovanni prende 4 in matematica, la mamma va lì, dice secondo me prende, è da 8. Quindi facciamo a metà, facciamo 6 meno, dai. Sindacalista, no, il sensale. Pensa a te avere dei genitori così, che ti proteggono, che ti tutelano su tutte le cretinate che fai. Ma secondo voi crescono più forti o più deboli? Ma è evidente. Quando abbiamo cominciato a progettare la scuola con Renzo Piano, una delle prime cose che mi ha detto, avendo lui letto delle cose mie, dice: immagino che tu non voglia i pavimenti, perché sapete che qua, anche nella regione Veneto, vuole pavimenti antitrauma. È fantastico. Cioè i bambini devono rimbalzare. È un'idea proprio... Io penso che Maria Montessori sia passata parecchie volte dall'assessorato alla scuola della regione Veneto, perché solo un genio così, un bambino deve rimbalzare. Perché noi gli dobbiamo dire che i pavimenti non sono duri, sono morbidi, amore. L'altro giorno ho visto con i miei occhi un gruppo WhatsApp di una signora che è venuta da me, scandalizzata, che ha fatto circolare nel gruppo WhatsApp della scuola elementare della sua figlia la fotografia a 5 centimetri dei graffi 2 sul collo di sua figlia. Gli ho detto: questa è una roba da ergastolo. Ma scherza, signora, i graffi, ma sono cose, non è mai successo. Non è mai successo che una bambina litigasse con un'altra. Ma avete mai sentito una cosa del genere? Che si graffassero? Ma scherzi. Bisogna che i figli siano integri. Devono vivere dentro un reparto di rianimazione. Questo è l'ideale massimo. Dove non succede niente. Dove non c'è un microbo. Dove non c'è un acaro. Dove non c'è una crosticina. Non ci deve essere niente. La perfezione assoluta. Ma vi rendete conto in quale regime nazista siamo capitati? Ma uno cade dal banco, bernoccolo, utilissimo nell'esistenza. Perché a 90 anni, no, tra i tanti dubbi esistenziali che avrai accumulato, una cosa è certa, che è credenza di cucina è dura. Punto, sono quelle chiarezze che ti illuminano la strada, o no? Ma che? Metti un materasso. Non li fai cadere, ci sono dei genitori che tengono la bicicletta del figlio dalla sella. Ma quando mai cadranno? Ma come si fa a essere così cretini? Ma un bambino deve cadere, perché devi imparare che cadi, piccola scorcone di coso, sul ginocchietto sinistro, ti rialzi, che è una cosa fondamentale nella vita, capisci che dopo una caduta c'è la possibilità di rialzarsi, diventi più forte. Ma se tu non sei mai caduto perché qualcuno ti ha tenuto la sella, tu avrai il terrore di andare da solo in bicicletta. Non riesco a spiegarmi. E adesso con la tecnologia tutto questo è diventato più difficile. Adesso non ci sono più le esperienze, ci sono i tutorial. La nonna non fa più la crostata, c'è il www.nonna.com, dove c'è una signora di Voghera, di qualche parte, che ti insegna a fare tutte le crostate, saranno identiche. Stessa marmellata, stessa larghezza del bigolo, tutto. Saremo perfettamente clonati. Siete contenti? Io no, io sono molto arrabbiato. Ultima osservazione. La tecnologia rende dementi, è vero. Io lo penso. All'inizio, quando ho cominciato a fare ricerca, mi sembrava più una battuta. adesso lo vedo con una certa chiarezza. Prima cosa, noi siamo, c'era una vecchia battuta di Woody Allen che diceva di quell'uomo che conosceva solo i chiodi e che era convinto che tutto il mondo fosse un martello. Funziona così. Se tu vivi in una sola dimensione, che è quella tecnologica, la tecnologia funziona in maniera semplice, 0-1. Non c'è il dubbio nella tecnologia. 0-1. Perché? Perché questo consente velocità. Il dubbio rallenta. E la tecnologia vende velocità. Certezze veloci. Guardate un dibattito qualsiasi. È diventato 0-1. Ormai qualsiasi argomento o è così o è colà. La terza cosa, che è il pensiero, la critica, l'immaginazione, non c'è. Non c'è. Ieri, dibattito a una radio importante. Mi chiedono se ero d'accordo sulla scarcerazione di Reina. Io ho detto, non mi potete chiedere questo, perché io non posso votare o di buttare via le chiavi a uno che c'ha il cancro, oppure dall'altra parte farlo tornare a Corleone che fa gli ultimi comizi. Io vorrei ragionare. Posso ragionare? È un uomo malato? Benissimo. Si trova una soluzione in un carcere con l'assistente, l'infermiera e le medicine. Così semplice. Ma siccome questo non rientra nello 0-1, è scartato. Twitter, 140 caratteri. Cosa vuol dire? Un'asserzione. Non puoi sviluppare un dubbio in 140 caratteri. È impensabile, giusto? È impensabile. Quindi aveva ragione Umberto Eco, fino a un certo punto. Quando diceva che i social diventano come il bar dello sport. In realtà io credo che lui non abbia conosciuto bene i bar dello sport. Io un po' li ho frequentati e ho una grande stima del bar dello sport. Tu al bar dello sport ce n'era uno dalle mie parti dove o sapevi tutta la formazione del Padova, dal 56 in avanti o non entravi. Ci volevano delle competenze. Perché se volevi dire che quel portiere è meglio, quello dovevi dire anche perché. Non era così semplice il bar dello sport, era complicato. Anche il bar dello sport aveva delle sue complicazioni. Oggi è tutto semplificato. 140 caratteri vuol dire che o voi siete pensati di essere Ungaretti o siete degli imbecilli. Siccome non credo che ci sia ancora Ungaretti in giro, io credo che stiamo scrivendo delle grandi imbecillità. Perché? Perché non c'hai, non puoi ridurre una discussione sull'immigrazione in cosa facciamo? Dopo 140 ci stanno, tutti dentro, dai, Poaretti, oppure via tutti, a lavorare. Ma possiamo ragionare così? Ma io non lo so, ma neanche non lo so, io, gli analfabeti degli anni 50 ragionavano così. Siamo arrivati al 2017 per semplificare tutto. Ma le cose non sono così semplici, non devono essere così semplici. Dobbiamo ragionare, ma se tu non sei più abituato a ragionare, pensate, questo anno accademico, all'inizio, 2016 settembre, il mio amico che insegna estetica a Milano, gli è arrivata una mail del preside della facoltà dicendo, da quest'anno vi prego, cari professori, tutti i volumi che superano le 800 pagine devono essere riassunti. È chiaro? È una delle peggiori notizie che io abbia ascoltato in questi mesi. Vuol dire che noi diamo un giudizio sui nostri giovani come se fossero spacciati. Cioè noi pensiamo che non ce la fanno a leggere 850 pagine. Ma è vero che non ce la fanno. Ma è verissimo che non ce la fanno. Ma se voi domani mattina mi invitate a fare la maratona, io muoio. Io muoio, faccio non so quanti chilometri, prima o poi secco. Perché? Perché non sono allenato. Non sono allenato a fare la maratona. Ma non è la mia età. Ci sono delle persone che lo fanno a 90 anni a New York. Sì o no? Quindi non è che quella persona lì a 90 anni ha sempre corso in tutta la sua vita. Sì o no? Io ho fatto medicina. C'avevamo degli esami da 6.500 pagine. 6.500 pagine. One shot, un colpo. No, no, appuntate. Uno. Ti poteva interrogare sulla prima o sulla 6.500esima. Perché non eravamo geni, ma neanche tanto secchioni. Eravamo preparati a far chiesa, a leggere. Leggevamo 150 pagine al giorno, 200 pagine al giorno. Era normale. Era come quello che fa l'allenamento della, della cosa, uguale. Ma se il nostro cervello, che cos'è? È un muscolo. Non è altro che un muscolo. Se tu lo eserciti, funziona bene. Se tu smetti di utilizzarlo, si atrofizza. Ecco il principio di demenza. Che cos'è che si insegna, i nipoti o i figli dicono ai nonni che vedono che cominciano a perdere un po' di colpi? Mi raccomando, la settimana enigmistica, giusto? Perché è un tocca sana. La settimana enigmistica è perfetta da una certa età in su, a parte che è divertente comunque, però una certa età diventa curativa. Perché? Perché metti in esercizio, no? I nomi desueti, quelle parole che non ti ricordi più, quelle associazioni di idee che non ti verrebbero. Tutto questo è utilissimo, mette in on il cervello. 049 32 518. Che cos'è? Non potete saperlo, è il numero di mia mamma. Avete capito che stava a Padova, però non potete sapere che è morta 35 anni fa. Ecco il numero di telefono, l'ultima volta che l'ho fatto è 35 anni fa. Come mai me lo ricordo? Perché non sono demente. Se avessi avuto un telefonino non mi sarei ricordato nessun numero, come adesso. Voi mi chiedete il numero di mia figlia? Non lo so. Se mi rubano il telefonino non so come fare. Neanche i carabinieri. Forse dei piccioni viaggiatori. È così? Sì o no? Perché? Perché se non usi... Io allora non è che sapevo solo quello di mia mamma. Tante cose. Io no, per forza. Quando andavo a trovare un'amorosa col motorino, c'aveva una mappa stradale magnifica. Non c'aveva mica il tonton. Se adesso c'hai il tonton, tu non sai girare per le città. È impossibile. Perché? Perché hai delegato ad una macchina. Questa è parte della nostra demenza. Più deleghi ad una macchina, meno cose fai tu. Meno cose fai tu, più il tuo cervello si atrofizza. È logico, non te lo verrà mai a dire Mark Zuckerberg, perché ci ha messo i miliardi su queste cose qua. Ha messo 16 miliardi di dollari sul il casco della realtà virtuale. Sapete cosa ha detto? Perché è un fenomeno. A me mi sta antipatico sto Zuckerberg, sto fighetto. Mamma mia, tutto in jeans, con la t-shirt che sembra che non ci abbia una lira, c'ha 900 miliardi. Vabbè, insopportabile. Fa. Quando l'hanno beccato la Samsung l'anno scorso che faceva l'affare da 16 miliardi di dollari. E adesso l'avete già visto sulla pubblicità, quella con gli struzzi, con quella roba lì. Infatti hanno preso giusto gli struzzi, vabbè, battuta. Lui ha detto, io ho una figlia, in realtà è il mondo che lo sa, perché noi sappiamo che è cresciuta, che sta bene, perché Instagram ci racconta della sua vita, come è ovvio, no? Come una santa, come un genio, come, bene. Allora dice, io e mia moglie che ha 30 anni abbiamo questa bambina e abbiamo i nostri genitori, ovviamente, siamo giovani, i quali però, essendo noi in Stati Uniti, abitano chi a 3.000 chilometri, chi a 4.000 chilometri. Bene, e io cosa ho pensato? Ho pensato che se io metto al centro della sala della nostra casa, dove nostra figlia Gattone, una bella telecamera a 360 gradi collegata ad un apparecchio che adesso vi venderò e che si chiama Oculus, ovvero un apparecchio per la visione della realtà virtuale, mio padre e mia madre si metteranno in poltrona a 3.000 chilometri e vedono mia figlia. Ma quanto sono buono io! Ma è pazzesco, no? Pensa alla bontà di quest'uomo. Ma è San Francesco, cos'è? È meraviglioso. Lui pensa ai bambini. Tommaso Calzone, ai bambini. Io, i miei prime settimane, mesi, li ho passati per molto tempo parcheggiato sul décolleté di mia nonna. Era un décolleté romagnolo, dunque ampio. Ampio e pieno di borotalco. Questo è stato il mio incipit della vita. Meraviglioso. Lì ricevevo coccole, ascoltavo storie, mi davano da mangiare le papine. Tutto avveniva tra le tette di mia nonna. È uguale? Ah sì, è uguale. Zuckerberg è uguale. No, mi spiace per sua figlia, ma è molto sfigata. È molto sfigata quella lì. Sarà miliardaria, ma come dicevo prima, è molto sfigata. Perché non sa cosa sono le emozioni. Non sarà stata cresciuta con le emozioni, che quando te le danno, le cerchi nella vita, è logico, ma se nessuno te la date, non sai come cercarle e smetti di farlo e arriva la noia. Attenzione, non buttate via tutto il reale per il virtuale. Attenzione, le carezze sono carezze, le lacrime sono lacrime. A me fanno pena questi ragazzi che si lasciano e si prendono con un messaggino di WhatsApp. Ai miei tempi era cosa complessa. Bisognava telefonare e dire all'amorosa dobbiamo parlare. Questo era l'inizio. Essa, che non era scema, capiva che era la Waterloo. Naturalmente era reciproco, perché anch'io tante volte ho sentito dire da una signorina dobbiamo parlare. E dovevi andare in un bar o dove diavolo volevi tu, e spiegare, darti un'idea del perché volevi porre fine a quel meraviglioso amore, giusto? Ed essa o adesso avrebbero cominciato a piangere e tu dovevi in qualche modo consolare. Beh, tutto questo si chiama ginnastica degli affetti. Non possiamo prenderla e buttarla via. È umano tutto questo. Non può essere sostituito. Non puoi dire ciao, ne ho trovato un'altra. È bestiale, non lo fanno neanche i cavalli. Perché vogliamo noi? Perché lo insegniamo? È così complicato che in una scuola elementare non si usino i telefonini. È così complicato. Ma sapete cosa è successo? Che il ministero dove noi abbiamo messo la gente più eletta, perché i migliori stanno tutti al ministero, fuori dubbio questo. Io non l'ho capito una volta che chiesi al sottosegretario, scusi, come mai noi in Italia chiudiamo le scuole il 15 di giugno? E questo mi ha guardato stranito, dice, perché, qual è il problema? Dico, il problema è che in giro per l'Europa non si chiude il 15 di giugno, a Parigi si chiude il 1 di luglio. Lui mi ha guardato, mi fa, beh, ma lì fa freddo. Dico, sì, è vero. Adesso che mi dice questo, caro sottosegretario, lei mi ha aperto un mondo. È per quello che in Norvegia non chiudono mai le scuole. Ci deve essere un motivo, no? E in Tunisia 15 giorni. E poi basta. Perché fa caldo, no? Quando c'hai un genio così al ministero, tu sei tranquillo. No, le scuole sono a posto. Infatti, no? Eravamo tra le migliori prime scuole elementari del mondo, adesso siamo 70esimi. A forza di mettere i geni lì, incompresi, vedete cosa è successo? O no? adesso è venuto su Don Milani, ma non si vergognano, nessuno ha letto Don Milani, perché se uno avesse letto Don Milani prenderebbe paura, perché era un rivoluzionario straordinario, era uno che insegnava ai ragazzi a dire di no. Diceva che il consenso non è l'unica cosa nella vita, e lo diceva sulla sua pelle. Leggetevi la famosa lettera al cappellano militare, 1956, anni difficili, un uomo di un coraggio spaventoso. Adesso facciamo degli applausi a Don Milani, non sappiamo neanche chi è. Se ci fosse un decimo di Don Milani nelle nostre scuole, saremmo in un mondo diverso, dove finalmente si potrebbe bocciare. Perché una scuola deve bocciare. Certo, uno che non sa niente deve bocciare. È ovvio. Cosa facciamo? La scuola del buonismo? Le pacche sulle spalle? Chiunque deve andare avanti? Ecco cosa vuole la tecnologia. Che siamo tutti uguali. Che sui vaccini può parlare un immunologo che ha 50 anni di esperienza e un DJ. È uguale. Tanto che differenza fa? No? E l'ho sentito, un DJ che parlava dei cose, una trasmissione, vi dico anche quello rosso di capelli che faceva Roxy Bar. Un neurone pettinato di qua e un altro di qua. No, perché è ovvio, no, che se tu fai DJ non vuoi sapere qualcosa sui cosi. Dai, sui effetti collaterali. Ma certo, no, è logico. Poi ce n'era un'altra che mi ricordo quando andavo da Costanzo, come si chiamava quella, un'altra, proprio una roba fantastica, che veniva con una bottiglia di urina, non so cosa volesse fare, la Brigliadori. Anche lei è una grande fan contro i vaccini. E adesso abbiamo migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di bambini a rischio. Perché l'ha detto un DJ. E il DJ parla tanto quanto un immunologo. E allora, se qualcuno di qua pensa che la democrazia sia uno uguale a uno, che è una bestemmia, che è una grande bestemmia, faccia una cosa. Quando vai in ospedale, si deve fare un'operazione, chiami un DJ. Scusa, perché? Perché devi chiamare un chirurgo? Tutti sanno, tutti possono parlare di chirurgia, no? Anche farla. No? Dove tagliamo? Pensa alla Brigliadori e quello di Roxy Bar che ti fanno un bel trapianto di fegato. È eccezionale, no? Sì o no? Forza! Ma ci vorranno le competenze sì o no in questo mondo? Ma stiamo scherzando, azzeriamo tutto, tutti sanno fare tutto, ma state scherzando! E poi non è vero, perché domani voi in ospedale chiedete il meglio dei chirurghi, per voi stessi, per vostra moglie, per vostro padre, per vostro figlio, sì o no? O vogliamo fare come quel disgraziato che ci aveva l'otite e gli dà le polverine ed è morto? Ma dove siamo? Al Medioevo. Cosa facciamo? Mettiamo le ragnatele sulle ferite? Perché lo dice il DJ? O come quello di Padova, che aveva una figlia con la leucemia, gli dava la vitamina C? Ma io non lo so, A questo siamo. Qualcuno c'ha quel dono. Ma perché questo? Perché una volta chi parlava erano le persone disposte a parlare, che avevano un ruolo per farlo. Ma chiunque alle 11 di sera può scrivere qualsiasi cosa su una chat. Qualsiasi cosa, ti inventi qualsiasi cosa, anche se è sbagliata, pieno di fake news. Poi dopo un po' dici, non era così, scusate, vabbè, tanto è uguale. Questo pressappochismo, questa melassa, attenzione, questa vale per noi. Ma un popolo che è tutto così, non è che è più facile da manovrare. Se va via la nostra libera scelta, se va via il nostro livello di libertà. Chi è che comanda? 1, 2, 20. Non più noi. I nostri nonni, i nostri padri sono morti per la libertà, per darci a noi la libertà. E adesso arriva Mark Zuckerberg e ce la porta via. Non più un esercito, non c'hanno più le divise, tutto friendly, tutto amichevole. Entra, esce, tutto, siamo tutti uguali, tutto bello, peace and love. Attenzione, cercate di tirare su una generazione più critica, più autonoma, che sia basata sulle gambe, che noi siamo persone che dobbiamo badare a camminare noi, non farci trasportare. Vedete, l'educazione alla fine di tutto è una cosa molto immateriale. Ecco perché era empio dire che ci vogliono i soldi, le raccomandazioni. No, nell'educazione non ci vogliono né i soldi, perché vorrebbe dire che il migliore educatore è quello che ha il migliore 740. Meglio non avventurarsi su questo terreno, perché forse è l'esatto contrario. Forse. Bene. Io credo che sia una cosa molto immateriale, basata su cose magiche, bellissime, bellissime. Per esempio, immaginatevi una cosa che mi è venuta in mente in un viaggio che appunto stavo andando a Genova, a un incontro con Renzo Piano. Un aereo in una giornata di aprile, bellissima, tersa, le 2, le 3 di pomeriggio, 2:15, 2:30, mi ricordo. E l'aereo plana sulla città. Bellissima, c'è un sole splendido, guardi Genova sotto, tutta illuminata, fantastica. E poi guardi il mare e vedi che c'è una bella onda regolare che viene dal nord-ovest. Per chi va a vela, questo è come il miele per gli orsi, si chiama maestrale, non c'è nulla di meglio. Eppure non c'era una vela tirata su. Allora ti viene da pensare, quanta gente abita qua sotto? 1 milione? Bene, su 1 milione ci saranno alcune decine di migliaia di persone benestanti, no? E che hanno magari una barca, chi ce l'ha più grande, chi ce l'ha più piccolo, chi ce l'ha a motore, chi ce l'ha a vela. Però ci sono un po' di gente che ce l'hanno, eppure non c'è una vela tirata su. Nessuno che in quel inizio di pomeriggio fosse andato dalla segretaria a dire, signorina, cancelli tutto quello che dobbiamo fare oggi, pulisca l'agenda, c'è un mal di testa terribile, la saluto e ci vediamo domani mattina, perché hai un'idea complicata. Sono 2:30, devi andare da tua figlia, ma tua figlia alle 2:30 sta guardando uomini e donne. Sono cose che non si possono perdere. Sono cose fondamentali, lo sapete. Maria De Filippi è una colonna della nostra cultura. Ha fatto cose per noi prodigiose. Uomini e donne è il meglio che c'è. Guardate, gente, no, onesta, fantastica, proprio intellettuale, proprio una cosa che un giovane, no, respira e... Bene, quindi è complicato. Cioè, avete un'idea? Però è complicata, perché da uomini e donne sarà difficile distoglierla. Usi uno stratagemma, arrivi sotto casa, suona il campanello. Maddalena, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Cosa è successo? Non te lo posso dire, non posso salire. Vieni giù, devi venire giù, devi venire giù, subito, subito. Ci casca, vieni giù. Cosa è successo? Non te lo posso dire neanche adesso. Monta in macchina, per favore. No, adesso ti spiego, ma intanto monta in macchina. Ci casca un'altra volta, vai al porto, la porti su sulla tua barca, esci, tiri sulle vele, ti fai 2 o 3 ore di quel venticello forte, teso, senza parlare. Tra 40 anni, quando chiederanno a quella donna chi era tuo padre, uno che mi ha rapito, Non uno che mi ha lasciato due garage, uno che mi ha rapito, che mi ha insegnato che cosa sono le emozioni. Non te le scordi più. Questo è il mestiere di educare. Niente di meno di questo. E questo la tecnologia non lo può fare. È maledettamente umano. Cosa dice maestro? Capitano, mio capitano. Chi sarebbe il maestro? Qualche domanda ce la permettiamo, qualche riflessione? No, perché ne abbiamo già sentite tante. Grazie professore, è stata assolutamente coinvolgente, forte. È un po' tardi, ma se qualcuno vuole cogliere l'occasione per una domanda, una riflessione, siamo qua. Anzi, questo è il microfono che serve proprio per quello, quindi scendo, se c'è qualcuno che alza le mani. Ecco la signora lì. Scusi professore. Buonasera. Buonasera. Tutto giusto quello che ha detto e concordo pienamente. Però per fermare o per, non so, almeno, non dare il telefonino, non dare tutte le cose, le novità che escono, però prima o dopo, vabbè, che avrà ragione con la sua testa, ma no, facci. Allora, guardi, questa è una domanda che mi hanno fatto alcuni anni fa, quando stavo scrivendo un libro che si intitola Impara a essere felice. Io l'ho pensato e l'ho scritto pensando ad un ragazzo, ad una ragazza. E una volta mi hanno chiesto, ma come si fa a insegnare ad essere felice? Si può insegnare ad essere felice? Io ho pensato subito a mio nonno, a uno dei miei nonni. Io vengo da una famiglia di artisti, ma in particolare questo nonno, che era il nonno materno, era un falsario. Quindi un uomo molto creativo, non di moneta, non si preoccupi, di quadri, 600-700. Io ricordo quando lui costruiva gli aquiloni, non li costruiva per me, io ero il suo Sancho Pancia, lui era il mio Don Chisciotte, io ero il suo Sancho Pancia. Ero l'unico che poteva entrare nella sua bottega, avevo delle licenze che altri bambini non avevano. E quando lui il sabato cercava di costruire un aquilone e poi lo vedevo andare sull'argine e cercare di farlo salire in aria, lo vedevo felice. È lì che ho imparato che cos'è la felicità. Non mi ha fatto una lezione di felicità, era lui. Lui mi ha spiegato che anche alla sua reverenda età si può essere felici. Come? Semplicemente facendo la cosa che ti piace. Allora, tutto questo, io non faccio la guerra contro Zuckerberg, l'ho già persa, ha vinto Facebook, ma certo, vuole che vinca io, ma non ci penso neanche. Posso io chiudere questo affarino il sabato e la domenica? Posso essere libero di farmi due passi in montagna piuttosto che al mare senza avere il cinguettio, il che mi distoglie dal vedere, dal pensare ai fatti miei, che è una cosa meravigliosa pensare ai fatti, ma ci abbiamo messo dei secoli per poter pensare ai fatti nostri o no? Abbiamo i weekend, abbiamo conquistato i weekend. I nostri nonni lavoravano anche il Ferragosto. Io spero che mia figlia possa vivere con i trickend, giusto? Se andiamo avanti invece che... E cosa fa 3 giorni? Cinguetti? Cioè, sta 3 giorni con se stessa per mandare i messaggi? È tutto qui, ma è meglio andare a lavorare? O no? Allora, questo sto dicendo, ma se noi lo facciamo per noi stessi, se uno dice, guardate, basta, uno non può andare, io l'altro giorno in un ristorante, ma una roba pazzesca, 2 ragazzi, immagino io, fidanzati, morosi, non so, tutti e due così, vara, tutta la cena così, vara, dementi. Ma voi mi chiedete a prognosi, è in Fausta, non c'è più niente da fare, a 25 anni vai fuori con la tua morosa e vai a cercare, poi fai vedere la foto di quell'altra deficiente e dopo il filmettino, vada, che poi se voi li vedete sono una roba imbarazzante, perché non è che fai vedere, no, non so, una dichiarazione importante per la storia mondiale, no? Se andate a vedere i filmettini che girano in rete, è una roba imbarazzante. È il gattino che è scivolato dentro la vasca e non sa venire fuori. Questo è virale. E tutti, no? Oppure, non so, cose veramente... Che uno dice, ma davvero c'è tutto sto tempo? Ma voi siete disoccupati? Perché per stare dietro Facebook ci vuole una professione. Se vuoi andare indietro, a parte, io non ve lo consiglio, poi fate quello che volete. No, siccome io a un certo punto nella mia vita ho avuto anche pure l'idea di gestirlo, per un breve, poi l'ho dato al mio segretario e poi gli ho detto al mio segretario chiudi, perché è una cloaca, nel senso che chi ti scrive è solo per insultarti, per dire le solite banalità su quello che guadagni, su quello che non guadagni, su questo, proprio le cose, proprio emerge il peggio dell'umano, l'invidia, mai qualcuno che ti scriva, perché quelli che ti vogliono fare una domanda non ti scrivono su Facebook, ti scrivono semmai una mail, con rispetto, buongiorno, come si faceva una volta, buongiorno professore, come, scusi il disturbo. No, Facebook è un'altra roba, adesso non lo dico perché qua magari ci sono delle persone che potrebbero inorridire, ma è una cosa, veramente non la capisco, io non la capisco, poi se uno me la spiega, poi per carità, c'hai la bottega di pasticceria, vuoi far sapere alla città che hai fatto il panettone con i maroni? Vabbè. Mettila su Facebook e speriamo che te lo compri qualcuno, cosa vuoi? Ma è tutto lì? Cos'è, una vetrina un po' più grande? Tutto lì? Non è tutto lì. Questa è la Repubblica dei like. I like, ragionate sulle cose, scusate, non c'è il dislike. Io posso solo aderire, posso solo dire sì, non posso dire no. Facebook è costruito sul sì. Ma questo alle persone non più giovani qualcosa ricorda, eh? Tutto sì. Ma siamo arrivati al 2017 per dire solo sì. E se io volessi dire no, guardi che ci hanno fatto una riunione a California. Hanno visto che non poteva esserci, non è che non ci hanno pensato. Hanno visto che i dislike non fanno gruppo. I like sì. Poi chiedetevi un'altra cosa. Come mai si chiamano amici? È un furto, no? È un furto di una parola. C'è qualcuno che può dire di avere 500 amici perché sono 500 che su Facebook, uno può dire una baggianata del genere? Scusate, no, tanto per essere... Allora, 2 anni fa, qui sulle colline iberiche, una ragazza, 13 anni, si è impiccata, Il padre, che era con lei in casa, forse 3 anni fa anche, immaginate cosa può non sapeva neanche più come si chiamava. Ha chiamato i carabinieri, hanno cercato tutto, se c'erano dei messaggi, se non c'erano dei messaggi, niente. Hanno aperto il computer, 700 amici su Facebook. Quanti intervenuti in quella notte? 0. Perché accettiamo una cosa del genere? Perché non chiediamo a Facebook di cambiare il nome? E dire conoscenti? Sarebbe già più vicino alla realtà. No? Non so, un altro nome. Perché l'amicizia è un nome sacro. A casa mia è un nome molto sacro. Alla mia età so cosa vuol dire amicizia, perché è stata un settaccio mica da poco. A 20 anni c'hai tanti amici. Tanti amici, tante amiche, tutto. Alla mia età siamo rimasti in 3 o 4. E quelli lì li ho visti ai alcuni funerali della mia vita. Perché gli amici si vedono ai funerali. E chi ha una certa età sa cosa sto dicendo. Altro che fai? Ma davvero c'hai quegli occhi lì? Ma che belle scarpe che ti sei comprata? Ma via, ma siamo diventati proprio... Cioè proprio io penso che ci sia un non so, io la vedo così, siamo diventati tutti... Come si dice? Rimmonimento? Cioè, posto che nasciamo un po' mona, siamo tornati tutti lì. Perché io penso che ci sia una... Io pensare che sono dei cinquantenni che perdono molte ore del loro tempo, ma io non faccio un discorso morale, faccio un discorso anche pratico, che credo che sia anche bello farsi una passeggiata. Penso che sia bello andarsi a vedere una mostra, perché magari incontri anche qualcuno che tanto che non vedi, vai a bere un bicchiere di vino, sai quelle robe umane, presente? L'ombra umana, per esempio, è una cosa interessante, un'ombretta umana. Io ho un certo rispetto per l'ombretta umana, perché quella roba là dell'amicizia, no? Pensate alla parola italiana, che bella che è, conversare, vuol dire versare assieme, è l'atto del vecchio, sai, sono delle persone di una certa età qui, no? Del vecchio che andava, prima di tornare a casa, si andava a fare un'ombretta all'osteria e bestemmiava sul mondo, no? Sul padrone che lo paga poco, sulla moglie che non la sopporta più, e quell'altro diceva dai bevi una santa, dai. Sì o no? È brutto una cosa del genere, ma sopravvivevi anche grazie a queste cose qua, o no? Se adesso non c'è più la conversazione, neanche a cena. Ci sono delle famiglie in cui si arriva a cena ognuno col suo smartphone. Si cena e tutti comunicano. Con chi non si sa. Ci sono delle persone che tra la camera da letto e la cucina si mandano una mail. Sì, amore, cosa vuoi per stasera per cena? Ecco, risottino, amore, dai. Fatto o no? Pensa com'è complicata la comunicazione umana. Cosa vuoi per cena? Ma prenderei un risotto. Ancora questo risotto! Non ne posso più perché tua mamma faceva solo i risotti. Capisci che da una discussione semplice passa il divorzio. Invece la comunicazione cibernetica è perfetta. No? Non divorzi più, non parli più. Ognuno c'ha un suo mondo, tutti nella monade, perché che vuol dire tante cose, no? La monade. Siamo tutti lì. E io penso a questi genitori che hanno i figli chiusi dentro una camera da letto, una sorta di, non so, di tomba tecnologica, Allora lei mi dice cosa si può fare. Guardi, tanti anni fa, ma tanti anni fa, a Milano c'era una signora che mi diceva, sai, tutte le mattine mi sveglio, all'epoca si diceva, no, mia figlia, 6 anni, vuole vedere i cartoni animati giapponesi. E dico, quindi? Come si fa? Dico, guardi signora, stia attenta, difficile. Dietro la televisione c'è un filo nero. Segua quel filo. Arrivi al muro. Si chiama spina. Tira! Devo dire così? Devo dire così a voi? Devo offendere la vostra intelligenza? Come si fa? Si spegne. Ma lei pensa che moriamo io e lei? No. E allora? Se c'è qualcuno che ci vuole bene, aspetterà lunedì? O no? Io penso questo, io penso che si possa anche vivere senza mandare le foto dei cappuccini o delle unghie, o essere dementi a 60 anni con quella che non si sa come mai non risponde alla tua monata delle 6:12. Insomma, io penso che si sopravviva a questa mediocrità. Io credo di sì. Allora ci vuole un po' di coraggio, certo, ma il coraggio lo dobbiamo ritrovare. Noi siamo stati coraggiosi, scusate, abbiate pazienza, ma questa è una terra in cui è nato Marco Polo, che di coraggio ne aveva, perché se avesse fatto le cose facili, faceva Venezia, Chioggia, Chioggia, Venezia, Venezia, Chioggia, Chioggia, Venezia, fine, e moriva. Giusto, come hanno fatto migliaia di altri esseri umani in cerca di radicchietto a Chioggia. Va bene? Lui ha voluto fare una cosa un pochino più complicata. È andato con lo zio a Costantinopoli e dopo ha detto, tu rimani qua, dove vai? Oh, via, vado di là. E di là cosa c'è? Boh? Boh? So che c'è qualcosa. Coraggio, madonna. E noi siamo qua perché c'è stato Marco Polo, che non si è fermato neanche a Costantinopoli, che si è inventato una strada, che avrebbe potuto morire 1000 volte, e ci ha portato le pietre, la cannella, il tè, le meraviglie, le sete. Ma scusate, cosa sarebbe stato Venezia senza Marco Polo? Mestre? Non vedo mani alzarsi. Che ora è? Che ora sono? Tardi. È tardi. Vi regalo una paginetta e poi vado via. Mezza paginetta. Ricordo bene quel lontano 15 febbraio 1961. Non andammo a scuola quella mattina. Di buon'ora mio padre mi portò assieme a mio fratello all'ospedale dove lavorava, il CTO di Padova. Era una costruzione modernissima, appena inaugurata, e aveva, all'ultimo piano, una grande terrazza con un piccolo bar. Una ragione per quella vacanza, quella gita fuori programma, c'era. Tutti aspettavano l'eclissi totale. Quando l'ascensore si fermò in cima all'enorme edificio, ci consegnarono un pezzo di vetro affumicato. Rimasi estasiato, il cielo era diventato improvvisamente buio, come fosse mezzanotte. Sembrava di assistere ad uno di quei colossal di moda in quegli anni, quelli con i primi effetti speciali, gli attori muscolosi di Hollywood, le attrici truccate come Cleopatra. Tutto stava avvenendo sopra di me, oltre quel pezzo di vetro sporco di fuliggine. Il mondo, le sue meraviglie, si stava presentando a me in quella fredda mattina d'inverno. Quel giorno imparai a meravigliarmi, a lasciarmi avvolgere dall'immensa bellezza della vita. Guardavo in su, imbambolato, la bocca aperta, come quando mio nonno mi raccontava le storie che si inventava per me. Il 15 febbraio del 1961 non avevo ancora 10 anni, ma avevo cominciato a comprendere che l'esistenza va osservata dal basso verso l'alto, lungo la direzione della curiosità, sempre opposta a quella dell'indifferenza, della boria, dell'orrenda presunzione, oggi dilaganti. Se un bambino avesse visto quell'eclissi attraverso uno smartphone, non solo sarebbe ricordata mezzo secolo più tardi, ma soprattutto lo sguardo attonito al cospetto del grande buio di quel mezzogiorno, invece che la metafora della ricerca dell'infinito, si sarebbe sedimentato in un sentimento di paura e in una grande rinuncia. Buona serata.